scenari sono molteplici, abbastanza confusi e tra l'altro, come dimostrato anche da un sondaggio di Ipsos uscito ieri o al più tardi avantieri, più della metà degli italiani non ha ancora capito perché ci sia questa crisi di governo, il che chiaramente diciamo che non aiuta. Penso che le possibilità siano sostanzialmente tre. Una, che a parte là non cambia niente perché non succede niente, chiaramente, ovvero che appunto alla fine in realtà questa sia una bolla di sapone e non succeda sostanzialmente niente. Se succede invece qualcosa, un'opzione possibile è che ci sia un cambio di maggioranza con lo stesso Premier Conte, nel senso che Italia Viva giunge alla rottura, esce e quindi si cerca nuovamente una nuova maggioranza in Parlamento. Conte va da Mattarella magari e gli rassegna le dimissioni. Mattarella potrebbe dirgli: no, mi dispiace, adesso fermati un attimo, te le congelo, tu vai a vedere se c'è una nuova maggioranza in Parlamento e se la trovi torni da me e non ti faccio neanche dimettere, ma fai un nuovo governo direttamente senza fare passaggi particolari. Oppure invece Mattarella gli dice, sempre nello stesso scenario, gli accetta le dimissioni, si cerca una nuova maggioranza, lui dà già l'incarico a Conte, cerca una nuova maggioranza e Conte la trova. Una soluzione alternativa, la numero due, è che invece si abbia un governo con la stessa maggioranza, una maggioranza molto simile comunque sia, ma un nuovo Presidente del Consiglio, il che appunto sarebbe sostanzialmente una sostituzione del Presidente. Questo chiaramente porrebbe una soluzione di molti problemi e probabilmente garantirebbe anche la presenza di Italia Viva nel governo, in quanto sappiamo che uno dei problemi fondamentali per Renzi e il suo partito è sul recovery plan, e uno dei motivi per cui c'è questa crisi è per il recovery plan, oltre che per il recovery plan, per la presenza stessa di Conte, appunto, non troppo gradito. Quindi, appunto, un altro scenario possibile è che si crei una maggioranza che sostanzialmente sia identica a quella che c'è già e ci sia semplicemente un cambio di Presidente del Consiglio. Un'altra opzione è invece un'opzione non politica, ovvero la situazione salta, Conte salta, non si trova un'altra maggioranza di tipo politico che possa o sostenere Conte o sostenere un'altra Presidente del Consiglio, e quindi cosa succede? Si chiama, come è già successo 10 anni fa tra l'altro, il decennale tra qualche mese, con l'esperienza dell'ultimo governo Berlusconi, salta il governo, viene chiamato dall'Europa una figura molto importante come fu Mario Monti ad esempio, per gestire con un governo tecnico e di larghissime intese, le più larghe possibili, che quindi appunto vada oltre la maggioranza attuale ma tenda ad aggregare anche parti dell'attuale opposizione, penso ad esempio a Forza Italia o a qualcuno del gruppo misto degli ex fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, se non addirittura appunto Lega e Fratelli d'Italia, anche se sembra estremamente improbabile. E appunto attraverso questo Presidente del Consiglio nuovo, non politico, si può pensare all'ex governatore della Banca Centrale Europea Draghi, si può pensare a Marco Cartabia, grazie a questi appunto insediare un nuovo governo che poi torna a vedere quanto possa durare, ma che comunque gestisca la, fra virgolette, senza neanche troppe virgolette, maggioranza attuale. Oppure l'ultimo scenario, salta tutto, si va a votare. Proprio su questo ti volevo chiedere, è verosimile in una situazione come quella attuale, con una pandemia che sta tornando a crescere, cioè quest'ultimo scenario? A parte che soprattutto in Italia tutto è possibile, e più una cosa è improbabile, più alla fine è facile che si verifichi, però mi sembra che nessuno abbia veramente voglia di andare a votare, soprattutto all'interno della maggioranza, e che al momento chi avrebbe più interesse ad andare a votare, che al momento è l'opposizione, in particolare Lega e Fratelli d'Italia, non mi sembra che stiano spingendo in maniera molto forte per effettivamente andare al voto, cosa che dimostra comunque che non c'è tutto questo interesse nell'andare al voto. E poi c'è da considerare che nei prossimi 12 mesi si eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica, il che questo Parlamento è una cosa che vuole fare, oltre al fatto che dopo l'approvazione del referendum costituzionale c'è la certezza per più della metà del Parlamento che tra quello e il cambio dell'orientamento di voto rispetto alle elezioni politiche precedenti da parte della popolazione italiana, più della metà del Parlamento non sarà più lì al prossimo giro. Sono Renzi incluso? Ottimi... E dipende dalla legge elettorale. Al momento, se si va a vedere i sondaggi, forse Renzi, ma nel senso proprio che forse entra lui e altri due o tre, però questo è tutto da vedere. Sicuramente adesso rischierebbe di non entrare, però poi bisogna vedere la campagna elettorale e tutto il resto.